Cari amici, voi lo sapete che predico a voi, ma queste parole vanno anche lontano, vanno in giro. E allora parlo a voi, ma parlo anche a chi mi ascolterà e avrei tante, tante cose da regalarvi. Anzitutto, per parlare una parola sola del Cardinal Ferrari, Beato Carlo Andrea Ferrari, vescovo cardinale di Milano a cavallo tra il 1800 e il 1900, che fu un grande personaggio. Anzi, condividerò la predica che ha fatto il nostro arcivescovo attuale, Monsignor Delpini, su di lui, una predica molto sapiente, molto bella, perché è stato veramente un gigante il Cardinal Ferrari, e dispiace che abbiamo di questi grandi personaggi non conosciuti. D'altra parte, nella Chiesa non c'è la proprietà privata. Un santo milanese è un santo per tutta la Chiesa. D'altra parte, lui non è mica nato a Milano, era il figlio della forte terra parmense, della montagna dell'Appennino parmense. E dunque è bello avere questa comunione dei beni spirituali. Però poi vorrei anche parlarvi di questo Vangelo, perché mi colpisce vedere questa donna sofferente, e la salute è una grande cosa, che dice: se appena riesco a toccare Gesù o almeno il lembo del suo mantello, certamente sarò guarita. Così fa e così avviene. Questo faceva nascere in me tante riflessioni che vi condivido. Quante volte la gente dice: ci credo, non ci credo. È una parola sbagliata. Ci credi a che cosa? Ma che ci deve essere qualcosa? Ma no, amici, io credo in te, Gesù. Non ci credo, io ti credo. Anzi, credo a te. Che bello quando un papà e un figlio magari fanno una discussione e non si capiscono, e alla fine magari il papà, guardando il figlio, dice: guarda, io ti credo. Che bello, che bell'atto di fiducia fa questo papà, questo adulto, nei confronti di suo figlio, perché sa chi è suo figlio. Ti credo. Poter dire a Gesù: io ti credo, ti credo così tanto, dice questa donna, che voglio toccarti. Anche questo gesto, amici, è un gesto profondamente umano. Provate a pensare, se siete stati a Lourdes, quando la gente passa sotto la grotta, non c'è nessuno che non tocchi quella roccia lì che è levigata. Ma anch'io non mi sono vergognato di fermarmi, di appoggiare la mia testa e di dire: Madonna, benedici questa testaccia, guarda, benedicila tu. O vanno sulla tomba di Sant'Antonio o di Padre Pio, si vuole toccare. Ma è un gesto profondamente umano, bello, non è superstizioso, magico. Ricordo nella chiesa, nella grande chiesa in cui sono stato, terminata la messa, si avvicina un nonno con in braccio una nipotina e dice: Don, aspetti a mettere l'allarme sull'altare, che la mia nipotina vuole andare a salutare Gesù. E la porta su sull'altare, e questa bambina mette la mano alla bocca per un bacio e poi tocca la porta del tabernacolo. Ma che bravo nonno, ma che brava bambina. Il toccare, amici. Capite che da questo punto di vista la sciocchezza di tante persone che mi avevano invaso, adesso la cosa è passata, ma un po' di mesi fa: Don, ma è vero che si fa peccato mortale ricevendo Gesù sulle mani, l'Eucaristia sulle mani? Ma cosa ti salta in mente? Ah, ma l'ha detto anche un prete. Che sciocchezze, amici, perché le tue mani sono più cattive della tua lingua, o magari la tua lingua ne commette di peccati molto più che le mani. E gli apostoli, quando hanno fatto l'ultima cena, pensate che Gesù li ha imboccati o ha detto prendete e mangiate? Che bello, amici. Allora vi invito, quando vi accosterete da adesso in poi a ricevere Gesù Eucaristia sulle vostre mani, venite con grande solennità affinché il sacerdote possa deporre come su un trono il corpo di Cristo e voi con grande solennità lo prendete, prendete e mangiate. Questo è il mio corpo. E poi magari io mi farò un po' più di coraggio e prolungherò il silenzio dopo la comunione. Ho sempre paura che la gente si spazientisca, che la gente vada, che la gente c'ha da fare, che guardi l'orologio, ma com'è lungo, oggi poi è stato lungo anche nella predica, figurati quello lì. Fermiamoci, amici, abbiamo il corpo di Cristo dentro di noi, la sua carne mistica si mischia con la nostra carne. Se toccherò il corpo di Cristo sarò guarito, se mangerò il corpo di Cristo sarò guarito.